Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di Corea, soprattutto di Corea del Sud, ma anche un po' di Corea del Nord. E lo facciamo con Andrea Gostein. Buonasera Andrea Gostein. Buonasera Fabi. Andrea Gostein è economista dell'OCSE, attualmente a Parigi, ma ha passato gli ultimi anni in Corea come appunto inviato, osservatore, studioso dell'OCSE per guardare la realtà coreana. E ne è uscito un libro, Il miracolo coreano, edito dal Mulino. Ecco, questo libro, Andrea Gostein, è un po' una fotografia di una realtà che è molto cambiata negli ultimi anni e si intitola proprio Il miracolo coreano. Perché Il miracolo coreano? Ma perché la Corea era un paese estremamente povero 40-50 anni fa e ancora 25-30 anni fa, quando vennero tra l'altro organizzati i Giochi Olimpici, era un paese che era molto più povero rispetto all'Italia o all'Europa in generale. Eppure ha fatto un salto che nessun altro paese è riuscito a realizzare. Gli stessi BRIC di cui mi ero occupato in passato sono riusciti a passare da una situazione di povertà a una situazione di relativo benessere, ma non sono riusciti a fare il salto che poi la Corea già realizzato di diventare un paese pienamente ricco. Ecco, quindi una rapida trasformazione, questo è il titolo del primo capitolo, ma una lenta democratizzazione, ma è qualcosa di diverso dal modello cinese? Beh, un modello estremamente diverso, anche se in passato, fino al processo di democratizzazione che è avvenuto in particolare negli anni Ottanta e poi si è rafforzato in seguito, comunque allora ancora la Corea era un paese con un regime autoritario, certo un regime autoritario, certo non comunista, anzi profondamente anticomunista, ma aveva delle caratteristiche che in qualche maniera potrebbero accomunarlo a quello di alcuni paesi emergenti dei nostri giorni. Però in compenso poi questa trasformazione in senso democratico del paese, delle sue istituzioni, delle sue pratiche e delle sue regole di ingaggio tra società civile e mondo della politica e dell'economia è avvenuto in tempi relativamente rapidi, perché ormai a questo punto vi direi che si può considerare praticamente la Corea un paese altrettanto democratico che qualunque paese europeo. Ecco, quindi un paese che si è aperto, che ha avuto dei benefici dalla globalizzazione, ma che all'interno ha avuto una mano pubblica molto presente. Infatti un capitolo si chiama L'intervento pubblico, una mano ben visibile ma non rapace. Ecco, come possiamo definire l'intervento dello Stato nell'economia coreana? È uno dei motivi per cui io ho chiamato il libro Il miracolo coreano, perché penso che possa interessare di più il lettore, ma in realtà il libro è tutto per cercare di dimostrare che poi non è un miracolo. Le cose che sono avvenute sono il risultato di una strategia che è stata seguita nel tempo, che è stata sviluppata con grande dovizia di attenzione agli aspetti istituzionali e in cui per l'appunto il ruolo del settore pubblico è rimasto importante. In alcuni momenti il ruolo del settore pubblico ha creato delle criticità, insomma non nascondiamoci per esempio che tuttora il livello di corruzione in Corea è abbastanza elevato e questo in parte ha a che vedere con l'estensione delle interazioni tra pubblico e privato, però nello stesso tempo c'è un senso di continuità nell'intervento pubblico e come dicevo l'intervento pubblico è basato su un studio estremamente sofisticato dei meccanismi di funzionamento dell'economia che ha permesso di continuare nel tempo e di imparare dalle lezioni e dagli errori. C'è secondo me una lezione che si può trarre dall'esperienza coreana, è proprio quella dell'importanza della programmazione e della capacità di mantenere l'attenzione nel corso del tempo. Ecco, una programmazione che ha portato alla creazione di grandi imprese, grandi gruppi di livello mondiale. È stata una scelta voluta dalla politica governativa coreana questa? È stata sicuramente una scelta voluta, c'era una necessità ancora appunto negli anni 70, 80, ma ancora negli anni 90 con nuove tecnologie come possono essere il nucleare piuttosto che l'alta velocità nelle ferrovie, c'era una necessità per la Corea di sorpassare un ritardo importante in termini sia di capacità finanziaria che in capacità tecnologica e per fare questo era necessario avere delle grandi imprese, sia perché sono le grandi imprese quelle che spesso e volentieri sono capaci di realizzare dei grandi progetti e di gestire la complessità, sia che perché per lo Stato è meglio interagire con un numero limitato di attori come sono le grandi imprese coreane. Direi che proprio questo legame tra programmazione e ruolo delle grandi imprese permette di capire perché la Corea sia stata molto brava negli ultimi decenni a gestire progetti estremamente complessi, come dicevo il nucleare è un esempio, ormai il nucleare coreano è competitivo a livello internazionale, nel 2011 la Corea ha per la prima volta vinto un grande appalto internazionale per realizzare centrali nucleari nei paesi degli Emirati Arabi Uniti. Un altro esempio è appunto l'alta velocità, in cui ormai la Corea compete con la Francia, la Germania e il Giappone. Ci sono le nuove tecnologie verdi, un altro esempio appunto di sistemi complessi in cui la Corea è stata brava ad entrare e a gestire. È interessante notare come la Corea abbia due grandi linee aeree internazionali e abbia un aeroporto che è il più stato votato negli ultimi 7 anni come il migliore aeroporto al mondo. Oggi paragone con l'Italia ovviamente è del tutto casuale, ma prima di passare all'Italia, perché l'ultimo capitolo è dedicato a come possiamo imparare dalla Corea, possiamo forse dire qualcosa sulla partecipazione popolare. Nel libro lei parla a un certo punto del fatto che addirittura gli operai sono scesi in piazza per alzare l'età pensionabile. Dico, ma dove viviamo? Nel mondo alla rovescia? Beh, un mondo alla rovescia, però è anche un mondo estremamente duro, è un mondo in cui comunque il motivo per cui sono andati in sciopero per andare in pensione più tardi è che vanno in pensione in compenso troppo presto, non tanto troppo presto per qualche motivo etico, ma troppo presto rispetto alla necessità che i coreani hanno di ripagare i debiti in cui incorrono, soprattutto per poter educare i figli. Questo è un paese in cui i criteri di Maastricht, per utilizzare dei criteri che ci sono familiari, sono pienamente rispettati dal settore pubblico, anche se il debito è abbastanza alto, ma in compenso il paese nella sua interezza, quindi considerando anche il settore delle imprese, soprattutto il settore delle famiglie, invece ha un'esposizione finanziaria molto elevata, perché la grande attenzione che la Corea e i coreani hanno dato all'istruzione negli ultimi decenni, che tra l'altro trova una sua manifestazione nel fatto che la Corea vince, tra virgolette, le grandi studi internazionali sul livello dell'educazione come PISA, CEPALOX. Ecco, il contraltare di questo è che l'investimento in educazione, in istruzione viene fatto dalle famiglie, le famiglie si indebitano e quindi quando ci si indebita e in più il sistema di welfare e soprattutto il sistema pensionistico è abbastanza ancora fragile, c'è la necessità per le famiglie, gli operai, le persone o i colletti bianchi di lavorare fino a 60-65 anni, quindi questo spiega perché gli operai della Hyundai sono entrati in sciopero per allungare, non perché vogliano o perché ritengono sia giusto lavorare fino a 60-62 anni, ma semplicemente perché l'alternativa è andare in pensione troppo presto, avere una pensione che non è sufficiente per ripagare, certo, i debiti con cui ci si trova ad avere a che fare. Ecco, il penultimo capitolo di questo libro è dedicato alla Corea del Nord, con una panoramica anche di questo paese che all'inizio, negli anni del dopoguerra, dopo la guerra di Corea appunto, era addirittura un paese più sviluppato, più industrializzato della Corea del Sud, ma poi ovviamente per il sistema politico che si è scelto è rimasto indietro, e se non ha fatto passi indietro rimane rispetto al resto della Corea, ma anche rispetto al resto del mondo. Però vorrei dedicare questi ultimi minuti all'ultimo capitolo, che è imparare dalla Corea. Che cosa l'Italia può imparare dall'esperienza coreana? Ma direi che il primo può essere un elemento di ispirazione più che di insegnamento, quello che se i coreani, che appunto non dimentichiamoci che 40 anni, 50 anni fa Corea in Italia voleva dire, nella migliore delle ipotesi, il famoso calciatore dentista che segnò i gol all'Italia negli anni del 66, esatto, che soprattutto era del nord, ma soprattutto voleva dire le Coree, cioè le periferie quasi devastate delle grandi città del nord e dell'Italia, in cui si viveva veramente male, quindi nell'immaginario collettivo era un paese estremamente povero. Che un paese così povero sia potuto diventare così ricco ci dice che se si prendono le scelte giuste, se si fanno le discussioni sulle questioni veramente importanti per il futuro di un paese, i risultati poi si possono ottenere. Non è un elemento di semplice volontarismo, è avere la capacità di fissare un capo e cercare poi di raggiungerlo in tempi relativamente brevi. Quindi l'importanza di un consenso su certi obiettivi e sulla maniera in cui realizzarli. Quindi, e da questo punto di vista penso che di nuovo la Corea ci insegna che è importante l'investimento pubblico e privato nell'istruzione, come dicevo è il paese che vince tra virgolette PISA da molti anni, è un insegnamento sull'importanza dell'infrastruttura, in cui, come dicevo, la Corea è estremamente competitiva, che sono quelle aeroportuali che menzionavo, ma sono appunto l'alta velocità o altre cose. Poi ovviamente ogni paese fa le sue scelte, quindi non entro ovviamente in un discorso su quanto sia giusto fare un ponte in Italia piuttosto che un'alta velocità. Il problema è comunque sapere che bisogna prendere delle scelte e seguire poi un capo in maniera coerente nel tempo. Ecco, si parla anche nel libro della parabola della cucina coreana, della capacità dei coreani di voler imporre il loro cibo e le loro abitudini alimentari al resto del mondo. Qui forse l'Italia ha una materia prima che potrebbe utilizzare meglio seguendo l'esperienza coreana, se no rischiamo che il cibo globale non sia più la pizza ma sia un cibo coreano. Ma sì, questo è un rischio poi ovviamente soggettivo, ci sono tanti amici miei che pensano che in Corea si mangi molto bene, ma la questione secondo me fondamentale è evitare che il cibo coreano potrà avere il successo che si merita, ma il rischio penso per un paese come l'Italia è che la pizza globale che si mangerà nei prossimi decenni sia coreana, cinese piuttosto che americana. Del resto già il caffè che si beve mondialmente, tutti sanno che il caffè che si compra nelle catene americane viene venduto con un nome italiano, però sappiamo benissimo che non è italiano. Ecco, quello stesso sta accadendo, io parlo dell'esempio appunto della pizza e della cucina italiana più in generale in Asia, che sempre più viene spinta da attori industriali, economici che non sono italiani. Non c'è nulla di male di per sé, però ovviamente sarebbe meglio se invece fossero le pizze italiane, le catene di pizzerie italiane. Dietro quello ci sta appunto di nuovo l'attenzione alla programmazione, che può ogni tanto fare ridere l'idea che abbiano degli obiettivi coreani così quantitativi fissati sul numero di ristoranti coreani che devono aprire ogni anno e sul numero di stelle che devono guadagnare nelle guide Michelin, però questa è già una maniera di valutare poi l'opportunità di certi interventi. C'è una logica di sistema, perché insieme alla fornitura e all'apertura dei ristoranti c'è anche una strategia per spingere l'agroalimentare, per spingere alcuni prodotti che sono fortemente tipici della cucina coreana. C'è una logica di sistema anche nell'appoggio evidente che danno le istituzioni pubbliche sia a livello di promozione dell'immagine del paese anche attraverso la cucina, sia attraverso di ricerca e sviluppo che viene fatta di nuovo nell'ambito del food e dell'agroalimentare. Ecco, quindi se vogliamo sapere che cosa c'è dietro questi successi anche alimentari in prospettiva della Corea, ma per ora sono successi soprattutto sul fronte industriale, sul fronte produttivo, sul fronte dell'innovazione, il libro di Andrea Gostin, che ringraziamo di essere stato con noi questa sera, si chiama Il miracolo coreano, edito dal Mulino, costa 16 euro, 220 pagine. Grazie Andrea Gostin, grazie anche a Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento è per sabato prossimo.